Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ogni anno un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo viene sprecato, una quota che equivale a 1,6 miliardi di tonnellate di cibo. Ecco perché la consapevolezza antispreco va, è il caso di dirlo, alimentata, diffusa, incentivata. Ecco perché dopodomani, martedì 29 settembre, si celebrerà per la prima volta la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, giornata istituita dalla FAO e dalle Nazioni Unite. Per l'occasione, Too Good To Go, l'app contro lo spreco alimentare che vi abbiamo raccontato fin dal suo arrivo in Italia, ha riunito 11 chef stellati e i loro piatti antispreco. Intanto a Milano un'alleanza virtuosa tra aziende e associazioni non profit ha unito la lotta allo spreco alimentare all'aiuto alle persone bisognose per un progetto di solidarietà circolare prezioso in questo periodo di crisi sanitaria, economica e sociale. Il progetto si chiama Spesa Sospesa, ve lo raccontiamo tra pochissimo. E poi spazio alle tendenze con la Korean Wave, la passione per la cultura e la tradizione coreana, dal cinema alla cucina, passando per la musica e la cosmesi, e con la Digital Detox, il moltiplicarsi di prodotti e servizi per crearci tempi e spazi dedicati alla disconnessione. Il 29 settembre sarà la giornata internazionale contro gli sprechi alimentari. Un terzo del cibo ogni giorno viene sprecato in tutto il mondo. Insieme a Too Good To Go l'ho spiegato ai miei clienti in maniera concreta, con una piccola provocazione. Il video lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è stato ripreso da molti media ed è diventato virale. La provocazione di Carlo Cracco, lo avrete riconosciuto, è stata quella di servire ai propri clienti una pizza con un terzo in meno, una candid camera che si risolveva poi con l'arrivo della fetta mancante per far capire l'entità dello spreco alimentare. Cracco è uno degli 11 chef che il 29 settembre, in occasione della giornata internazionale contro lo spreco alimentare, renderà disponibile la propria chef box contenente il proprio piatto antispreco completo di ricetta su Too Good To Go, l'app antispreco presente ormai in molte città italiane ed europee, che consente di acquistare a fine giornata a prezzo scontato il cibo rimasto invenduto presso bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel. Ci racconta tutto Eugenio Sapora, che è il Country Manager Italia della piattaforma. Noi come Business Core salviamo cibo e quindi è in questa giornata del 29 settembre in cui effettivamente si parla di lotta allo spreco alimentare e della giornata che la FAO ha deciso essere come la giornata mondiale della lotta allo spreco alimentare, è importantissimo sensibilizzare le persone. Noi come app abbiamo già fatto tanto, abbiamo ormai 1,5 milioni di utenti sparsi in tutta la penisola, da Aosta a Catania, ma in queste giornate è importante passare messaggi forti e quindi abbiamo deciso di coinvolgere 11 chef stellati. Abbiamo tirato fuori questa idea della chef box, sono delle magic box, quindi delle box che tutti gli effetti si possono acquistare su Too Good To Go solo in occasione della giornata del 29, preparate da questi grandi chef stellati con ricette antispreco. L'idea è proprio quella di sensibilizzare l'utente finale al fatto che creare ricette antispreco si può, riutilizzare degli ingredienti che sembravano da buttare si può, e questo è tipicamente quello che facciamo noi come mission. E quindi ci sembrava molto carino coinvolgere tutti questi chef, da Eugenio Moer a Perdomo, a Cracco, Claudio Sadler anche, ecco, saranno tutti effettivamente lì a preparare le nostre chef box per questa giornata molto importante, e di nuovo l'idea è esattamente quella di usare una ricetta antispreco che permetta di convincere e di sensibilizzare le persone su questa tematica molto importante. Mai come in questo periodo di emergenza, anche sociale, il recupero delle eccedenze alimentari si è fatto importante anche per il sostegno ai più bisognosi. Spesasospesa.org è il progetto di solidarietà circolare arrivato a Milano grazie alla collaborazione tra Terre des Hommes Italia e Banco Alimentare. Raffaele Izzo. Questo è un progetto che nasce appunto con l'idea di combattere lo spreco alimentare, ma al contempo riuscire a massimizzare l'utilizzo dei fondi raccolti. Come lo fa? Mette insieme i vari attori presenti sul territorio, quindi dalle pubbliche amministrazioni alle organizzazioni no profit che lavorano per sostenere appunto le famiglie più bisognose, e le aziende che hanno beni da vendere a prezzi ovviamente all'interno di questo progetto convenienti, o bene appunto da donare perché è vicino alla scadenza o semplicemente per eccedenza di magazzino, e quindi permette di avere una percentuale tra i beni donati e i beni che si possono acquistare, diciamo tra il 50 e il 50%. Questo quindi permette già da subito di massimizzare appunto i fondi a disposizione da spendere per poi donare i prodotti di prima necessità alle famiglie bisognose. Allo stesso tempo, all'interno del progetto è previsto l'utilizzo di una piattaforma tecnologica che è il cuore un po' del progetto, che si basa anche sulla tecnologia blockchain, che permette di tracciare tutti i flussi, sia dei fondi all'interno della piattaforma che delle merci, fino diciamo al destinatario finale, quindi da quando escono dal produttore fino al beneficiario. Questo è sicuramente permette da una parte la trasparenza totale e dall'altra di conoscere perfettamente come questo sistema garantisca efficienza, che è vitale per questo tipo di attività, e un monitoraggio su come sono stati utilizzati i fondi. Quindi Spesa Sospesa si rivolge sia alle aziende che hanno disponibilità, sia ai cittadini bisognosi. I beneficiari sono i cittadini bisognosi, che in questo periodo di crisi sono aumentati, come sappiamo, i numeri della povertà in Italia, di persone appunto che hanno bisogno anche di un aiuto semplicemente per fare la spesa, sono in forte aumento e non sappiamo quando migliorerà la situazione. Quindi c'era il bisogno, dopo la fase di prima emergenza, dove appunto le organizzazioni e noi per primi come Terre des Hommes abbiamo avviato una campagna, si chiamava appunto Una spesa per i bambini, ci siamo mossi sull'emergenza con l'aiuto dei volontari, poi abbiamo capito che era il momento di creare un sistema che potesse aiutare la comunità nel lungo periodo. Quindi è una sorta di filiera della solidarietà digitale che vive sia della parte insomma fisica, poi nella parte finale distribuzione, ma che funziona grazie a un'impalcatura digitale, dico bene? Assolutamente, e l'impalcatura digitale è quella cosa che ci permette poi di monitorare appunto tutto questo percorso e capire di volta in volta anche dove è migliorabile e se effettivamente si è massimizzato lo sfruttamento di queste risorse economiche che si hanno a disposizione con le donazioni appunto di altre aziende o con la donazione degli altri cittadini. La quota di cibo inizialmente destinata allo spreco che viene recuperata non va sprecata neanche quella a sua volta, quindi insomma l'ottimizzazione è molto importante. Una realtà che vive della condivisione, della partecipazione di tutti, c'è modo anche di sostenere il progetto, lo vogliamo ricordare? Assolutamente, anzi in questo momento è attivo anche un SMS solidale, fino al 27 settembre si può donare con un SMS, con una telefonata da fisso al 45 591. Non solo cucina, musica e cinema. Sapete che la K-Wave, la K-mania, si allarga a nuovi fenomeni di culto come gli abiti tradizionali, la carta, la casa. Ve li raccontiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Spazio anche alle nuove evidenze della tendenza Digital Detox, la disintossicazione digitale. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Molti parlano di effetto Parasite, il film vincitore del premio Oscar 2020. La fascinazione per la Corea però ha radici anche meno recenti, dal K-pop alla K-beauty, passando per la cucina, le serie TV, la carta tradizionale Hanji e l'arte marziale del Taekwondo. Per promuovere la conoscenza della cultura coreana in Italia, l'Ambasciata della Repubblica di Corea e l'Istituto Culturale Coreano hanno lanciato un videoconcorso Corea in Camera. È aperto a chiunque fra gli italiani voglia raccontare e rappresentare il proprio modo di vedere la Corea. Il responsabile del progetto, Anul Ong. Noi organizzavamo moltissimi eventi, spettacoli, mostre, anche corsi di formazione così, per presentare la nostra cultura, ma data questa situazione un po' particolare a causa della pandemia, abbiamo voluto spostare la nostra attenzione sulla rete, sulle attività online. E da qui, dato che abbiamo bisogno anche dei contenuti digitali che già stiamo offrendo attraverso i nostri canali online, streaming di film, spettacoli o anche corsi di cucina, di taekwondo, eccetera. Però ci sembrava anche bello, abbiamo avuto l'idea di questo concorso, Corea in Camera, di presentare la Corea in qualsiasi suo aspetto con un contenuto creato direttamente dagli italiani. Quindi sono gli italiani stessi che vanno a presentare agli italiani la Corea. Su qualsiasi cosa riguardi la Corea, i rapporti che loro hanno avuto con la Corea, nel senso può essere la cultura tradizionale, moderna, oppure non so, il K-pop che adesso sta andando tanto di moda, oppure anche contenuti interattivi, oppure come i K-drama che stanno avendo una certa popolarità a livello globale. C'è anche la cucina, la cosmesi ad esempio. Esatto, esattamente sì. E poi anche un vestito tradizionale, parliamo anche delle cose un po' meno note, è una tradizione della carta, ce la racconta? E il nostro abito tradizionale è chiamato Hanbok, che oltre per le grandi occasioni, nel senso ci sono anche varianti che possono essere indossate nella vita quotidiana di tutti i giorni. C'è anche la nostra carta tradizionale chiamata Hanji, che tra l'altro è stata anche certificata come una delle carte più indicate per il restauro del patrimonio cartaceo italiano. Tutte le informazioni stanno sul nostro sito www.culturacorea.it e appunto i vincitori, poi i risultati, i contenuti audiovisivi che verranno poi selezionati verranno anche caricati sul nostro canale YouTube, che potete cercare attraverso la finestra di ricerca mettendo Istituto Culturale Coreano, potete trovare anche il nostro canale YouTube. Focus sui trend. L'emergenza coronavirus, lo abbiamo detto molte volte, ha accelerato la digitalizzazione di molti prodotti e servizi. L'aspetto negativo di questa rivoluzione, che resta per molti versi necessaria, è che tra smart working, corsi, eventi e processi d'acquisto online sono aumentate le nostre ore di connessione, il nostro tempo davanti a uno schermo. L'esigenza di staccare, quella che in gergo si chiama digital detox, una tendenza che abbiamo mappato più volte in questi anni, si fa sentire in modo più marcato. Una consapevolezza, quella della disconnessione, che dalla nicchia dei consumatori, degli utenti più evoluti, sta arrivando anche al grande pubblico. Lo dimostrano i casi che abbiamo raccolto insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera, bentrovati anche a voi. Parliamo di grandi numeri, di un caso che riguarda il destinatario di molti tap, diciamo così, molte volte al giorno sul nostro smartphone, WhatsApp. Sì, esatto, una delle prossime novità in arrivo su WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile a chi si trova all'interno di numerose chat di gruppo particolarmente affollate, ma spesso povere di contenuti davvero importanti o significativi. Si tratta del vacation mode o modalità vacanza, un'impostazione che oltre a silenziare le conversazioni permette di nascondere dalla schermata principale del telefono e tenerle sempre nascoste a prescindere dall'attività che si svolge al loro interno. Già oggi le conversazioni sono archiviabili in uno spazio nascosto, ma basta un nuovo massaggio su questa chat archiviata per farlo tornare nelle chat recenti. Con l'attivazione del vacation mode le conversazioni perdono la possibilità di riemergere e finiscono nel dimenticatoio. Un'altra opzione interessante permette di archiviare in maniera automatica le chat rimaste inattive da più di 6 mesi. Sicuramente una buona arma di difesa, diciamo così, anche per separare per esempio le chat di lavoro da quelle private appunto durante le vacanze. Passiamo ad altri due colossi, stessa famiglia, che hanno lanciato una ricerca interessante in questa direzione, raccontaci. Sì, Facebook ha presentato un progetto di ricerca in collaborazione con alcune università americane per comprendere l'impatto di Facebook e Instagram sulle attitudini e i comportamenti politici durante le prossime elezioni presidenziali americane. Alcuni utenti statunitensi di questi social networks hanno ricevuto un invito a partecipare alla ricerca, chiedendo loro di disattivare i propri account Facebook e Instagram fino alle elezioni. Come contropartita, secondo una pratica che è abbastanza comune negli studi di ricerca accademica, a questi volontari del detox digitale è stata offerta una ricompensa di $120. I risultati della ricerca saranno disponibili nella primavera dell'anno prossimo e coinvolgeranno come panelisti dalle 200.000 alle 400.000 persone. Ti pago per non utilizzarmi, sembrerebbe un controsenso, ma invece non lo è. La piattaforma, soprattutto dopo gli scandali delle ultime presidenziali, vuole appunto capire l'impatto che i social network hanno sulle elezioni. Il prossimo caso invece riguarda le vacanze e anche qui c'è di mezzo una sfida e una ricompensa. Come dicevamo prima, il lockdown ci ha costretto a passare molto tempo sugli schermi a scapito dell'attività all'aria aperta e non appena le restrizioni si sono allentate, da noi come altrove, è cresciuto il desiderio di uscire e muoversi facendo registrare un vero boom nella vendita e noleggio di camper. La società americana Satellite Internet, che è specializzata nei collegamenti internet all'aperto, ha proposto questa sfida singolare per provare a stimolare i partecipanti a entrare in sintonia con la natura. Il fortunato vincitore di un sorteggio verrà ricompensato con $1,000 se sarà disposto a rinunciare alla tecnologia per un intero fine settimana trascorso in camper in un parco nazionale a sua scelta. Satellite Internet si farà carico anche di tutti i costi di questa esperienza, dal noleggio del camper al cibo e quant'altro. Non sarà possibile quindi postare le foto dei paesaggi su Instagram o twittare su quanto sia gradevole l'odore del bosco. Solo al termine delle 48 ore questo nostro eroe del fine settimana potrà connettersi e raccontare al mondo questa avventura. La digital detox, lo abbiamo capito, sta diventando un'esigenza sentita dai consumatori, ma anche un tema da cavalcare a livello di marketing e un oggetto di ricerca, anche un movimento culturale tout court, diciamo così, tanto che immancabile per ogni fenomeno è arrivata anche la giornata dedicata, Carlo. Sì, ed è stato lo scorso 5 settembre il primo Digital Detox Day, un evento nato per invitare le persone a riflettere sul rapporto con i social network e spingerle ad un consumo digitale un po' più consapevole, anche e soprattutto a tutela della salute mentale. L'iniziativa è stata promossa da Lush, che è il brand famoso per la produzione e la proposta di cosmetici etici, in collaborazione con Hemewall, organizzazione per la salute mentale, e Zoe Saggi, in arte Zoella, che è una famosa videoblogger, influencer e autrice di bestsellers. L'invito era chiaro: spegnere per 24 ore Facebook, Instagram, Twitter e ogni canale social, dedicando invece tempo di qualità ad attività nella vita reale, riflettendo sull'uso che si fa della tecnologia. Per partecipare alla campagna bastava disegnare sul palmo della propria mano un cerchio con la scritta OFF nel mezzo e pubblicare la foto sui propri canali social entro la mezzanotte del giorno precedente per segnalare la volontà di disconnettersi per l'intera giornata di sabato 5 settembre. Nell'occasione l'ASH ha presentato la bomba da bagno IRL, che prende il nome dall'acronimo In Real Life, a indicare i momenti nella vita reale in contrapposizione a quella digitale. Il ricavato delle vendite verrà devoluto a le piccole associazioni che si impegnino nella tutela della salute mentale. Una giornata off è sicuramente un bel invito da condividere con i nostri ascoltatori anche a livello familiare, dico io, una bella iniziativa che si può copiare. Carlo Ricciardi, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa sera? Buonasera Maria Luisa e ai nostri radioascoltatori. Stasera ho il piacere di anticipare che il nostro Festival della Crescita, che tu conosci bene, riparte in presenza, anche se con una formula mista. Giovedì 1 ottobre dalle 19 saremo in Piazza Castello e riparte su forse l'unico argomento che può in qualche modo essere considerato il grande tema, la rinascita dell'Italia, la ripartenza oltre la fragilità, e così ho anche citato i due titoli, uno è il mio libro ma è soprattutto quello di Antonio Calabrò, Oltre la fragilità, questa visione del futuro per il mondo ma anche e soprattutto per l'Italia. In che misura questo cambiamento è e sarà effettivo su nuovi basi come molti hanno invocato? Guarda, più passano le settimane e i mesi e più viene confermata l'ipotesi che già all'inizio noi avevamo, e cioè sarà un cambiamento molto profondo. Le persone sono sempre più consapevoli che a questo punto dobbiamo cambiare non solo le nostre abitudini ma anche i nostri paradigmi. Soprattutto parleremo diciamo di una visione di qualità del pubblico, del bene comune, del come questi aspetti che ci sono stati drammaticamente presentati dalla pandemia e dal sistema sanitario possano e debbano essere la sfida del futuro. Ecco, quindi non a caso abbiamo chiamato disegnare il futuro, questo nuovo inizio anche per il Festival della Crescita, proprio perché le persone cominciano davvero a capire, soprattutto il mondo femminile che, come tu sai, è il più sensibile, ma bella novità anche le generazioni più giovani. Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.